4. L'emporio era un cimitero di scaffali vuoti e sacchi sgonfi. Oltre ai vetri opachi delle finestre, i ragazzini del villaggio facevano capolino. Philip gettava loro un'occhiata e le piccole teste sparivano, ma soltanto per un battito di ciglia. Molly sedette con le mani in grembo, pronta ad accogliere qualsiasi notizia. «Siete partiti in molti e soltanto uno ritorna», disse. «Il mio cuore trema». Philip lasciò che le sue membra stanche si sciogliessero nell'abbraccio della sedia. «Non ne ha motivo. I tuoi stanno bene, Molly Brandt». La donna trasse un sospiro di sollievo. Philip indicò la fila davanti all'emporio. «Non si può dire lo stesso di voi». Molly annuì. «Il vaiolo ha attaccato la valle, ma l'abbiamo fermato in tempo. Dovrai farti segnare anche tu. Ma prima dimmi, perché mio figlio e mio fratello non sono con te?» Philip raccontò della scelta di Peter, arruolato nell'esercito inglese, e di Joseph, in viaggio sulle vie di Okwaga per raggiungere la famiglia. Raccontò anche di Daniel Klaus, rimasto in Inghilterra, e di Guy Johnson, a New York. «La compagnia si è sciolta, dunque», commentò Molly. Philip non disse nulla. «Le cose non vanno bene», riprese Molly, scuotendo la testa. «Contro l'epidemia della ribellione non conosco cure. I coloni hanno dichiarato l'indipendenza dall'impero. Le loro milizie si ingrossano giorno per giorno. Si arruolano in molti, anche persone che non ci aspettavamo diventassero ostili». Si incupì. «Poi ci sono quelli come Jonas Klug, che da tempo attendevano un'occasione come questa. La foresta non è sicura, il fiume non è sicuro, nessun luogo lo è più. Anche Johnson Hall è caduta in mano alla milizia. È successo a maggio. Sir John ha dovuto rifugiarsi in Canada. Ha lasciato qui la moglie con il figlio piccolo e un altro in grembo, insieme a una scorta. Pochi giorni dopo i miliziani hanno circondato la casa. Hanno preso la moglie di Sir John insieme al figlio. Ora sono prigionieri ad Albany. Hanno portato via anche la moglie di bambini di John Butler». Smise di parlare. Gli occhi tristi guardavano il pavimento. Li risollevò con fatica. Poi parve richiamare alla mente qualcosa che teneva in serbo da tempo. «Com'è il re degli inglesi?» domandò. Sembrava davvero curiosa di saperlo. «Un uomo che vive lontano dalla sua gente», rispose Philip, «in un palazzo grande come un campo di Bagataway». Molly giunse le mani e si lasciò andare sullo schienale. «Tu vuoi che io ti ascolti? Parla con sincerità». «Non possiamo vincere, Molly», disse Philip. «Puoi fermare le loro malattie, ma non il contagio che portano nell'animo. I bianchi ci distruggeranno come distruggono se stessi. Non fa differenza quale sia la bandiera. Sono un gorgo che si allarga e sprofonda ogni cosa». Questa volta il sospiro di Molly fu grave e prolungato. «Gli uomini pensano alla sconfitta come al sole che si spegne, il mondo che finisce. Le donne sanno che non è così». Philip si voltò. Le sagome dei bambini guizzarono via, colse nel movimento barlumi di sorrisi. «Faremo ciò che è necessario», riprese Molly. «Se è guerra ciò che ci attende, l'affronteremo, come abbiamo già fatto. Sangue sarà versato, ma io ti dico che il popolo della Selce non morirà se i suoi figli non lo rinnegheranno». Si alzò e gli poggiò una mano sulla spalla. «Sei tornato. È bello averti di nuovo qui, Ronaterionte. Ci aiuterai a superare l'inverno». «È per questo che mi hai richiamato? Perché possa essere con voi nell'ora del tramonto?» Il volto di Molly rimase impassibile. «Ti ho chiamato perché ogni cerchio va chiuso. Cosa questo significhi per ciascuno di noi non possiamo saperlo dall'inizio». Philip si alzò. Sentiva un grande affetto per quella donna e sapeva che i loro cuori sarebbero rimasti legati per sempre, fino al giorno della fine. Cercò le parole per dirglielo, ma lei lo prevenne. «Nel tuo viaggio è accaduto qualcosa che non mi hai detto». Gli lanciò un'occhiata di sbiego mentre si chinava a rimestare il fuoco. «Al tuo polso non c'è il vampum della tua adozione». «L'ho donato a una persona che aveva bisogno di buona sorte». La donna annuì ancora. «Sei un uomo generoso, Philip. L'ultima volta che quel bracciale è passato da una mano all'altra ha intrecciato i destini di due persone». Philip si rivide ragazzo, piccolo tamburino, sotto il coltello del carnefice. «Dio ti benedica, Molly Brandt». Le rivolse un cenno di commiato e raggiunse la stanza delle inoculazioni, sollevando la manica della camicia.